grazie ancora di aver accolto il nostro invito. Grazie a te. E buonasera, Fernando. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio molto Valeria Trevisan per aver accolto il mio invito a presentare il mio libro in questa sede. È un grazie non formale, perché mi rendo conto che il genere possa essere meno, come posso dire, meno accattivante di altri. D'altra parte la poesia è uno strumento di comunicazione artistico che, nonostante tutte le previsioni di morte o di decadenza, insomma, è sempre vivo e in fondo attuale. E il mio libro si intitola Musa ferroviaria. Devo premettere molto rapidamente, non intendo fare dell'autobiografia, ma devo premettere che ho cominciato a scrivere poesie, come si trova scritto anche sul retro di copertina, fin da ragazzo. E questo naturalmente non fa di me un poeta, quasi tutti hanno scritto poesie da ragazzo, insomma io non ho fatto eccezione in questo. Se non che mi sono accorto, quando ormai non ero più ragazzo, che le poesie le stavo scrivendo ancora, insomma, quindi mi sembrava di avere passato quella fase in cui potevo essere, diciamo così, accusato di essere un poeta adolescente, e mi sono trovato a scrivere poesie, come ripeto, anche da adulto, e quindi ho pensato ad un certo punto che fosse venuto il momento di pubblicarne qualcuna. E le poesie contenute in Musa ferroviaria sono state scritte quasi tutte negli ultimi due anni, cioè tra il 2006 e il 2008, e quindi è dopo la composizione del libro ne ho scritte molte altre, ma intanto queste sono le poesie che rendono più ragione della fase più attuale del mio scrivere poesia. Si intitola Musa ferroviaria, il titolo può sembrare curioso, ma effettivamente come tutti i poeti ho anch'io una musa, e questa musa è effettivamente in buona parte ferroviaria, cioè mi sono trovato spesso per ragioni di lavoro a viaggiare in treno e mi sono accorto che la mia musa mi visitava in treno. Io guardavo fuori dal finestrino e mi perdevo nei paesaggi e nello sferragliare del treno, appunto, e sentivo che qualcuno che non ero io mi stava suggerendo qualche cosa, insomma. Effettivamente nella scrittura poetica c'è anche molto, come posso dire, c'è anche molto mestiere, non c'è solamente l'ispirazione, e questo vale in generale per molti poeti, forse per tutti i poeti. E per quanto riguarda me, devo dire che effettivamente sento qualche cosa che, cioè quando incomincio a scrivere, sento che c'è qualcuno che non sono io, che mi sta suggerendo qualche cosa, cioè effettivamente è la percezione di una voce che viene da fuori, che non è del tutto mia, insomma. Questa è una condizione perfetta, perché mi permette anche di in un certo senso di scrollarmi di dosso la responsabilità di quello che scrivo, perché non è tutta farina del mio sacco. Accanto a questo, come dicevo, c'è anche del mestiere, ci sono anche delle letture. Qualsiasi cosa scriva è anche contemporaneamente un lettore, e io non faccio eccezione. Ho sempre letto molto, ho sempre letto molto anche poesia, e queste considerazioni possono servire ad introdurre il problema dei debiti, no? Che un autore contrae nei confronti della tradizione letteraria o di altri autori. E alcune delle mie poesie possono sembrare tristi o pessimistiche. E alla luce di questo mi è stato chiesto se Leopardi non abbia esercitato su di me un'influenza di qualche tipo. Naturalmente ho letto Leopardi, ma non mi pare che Leopardi c'entri molto. Della tradizione letteraria e poetica italiana ho voluto in alcuni casi salvare due aspetti fondamentali, che sono l'endecasillabo e la terzina, una struttura metrica in fondo abbastanza libera, perché non mi lego alla necessità della rima, come dico, sono aspetti tecnici, strutturali, caratteristici della tradizione letteraria italiana. Dopodiché, come credo che succeda a tutti, le esperienze che hanno composto la nostra, che hanno segnato la nostra esperienza, la nostra vita, gli incontri, gli abbracci, le carezze, i baci, qualche volta anche qualche sonoro schiaffone, rimangono in noi e ci modellano, ci danno una configurazione, ci disegnano. Ecco, nello stesso modo anche gli autori che ho letto devono avermi segnato, ma è chiaro che i riferimenti culturali possono essere molti. D'altra parte non è neanche compito mio, e può essere un interessante gioco di società che ciascuno se li cerchi da sé. E ancora soltanto due cose sulla struttura, dopodiché vorrei dare la parola a Maria Pia Zanetti che leggerà alcune delle mie poesie. I contenuti di questo libro sono sostanzialmente quattro. Ci sono poesie che parlano di poesia, e cioè cercano di fare luce sul significato dello scrivere poesia. Alcuni giorni fa, in una conversazione con Paolo Mazzucato, mi si è chiesto che cosa mi spinge a scrivere. Ecco, in parte ho già risposto: c'è una musa che mi tormenta, lo fa anche di notte, molto spesso mi devo alzare, darle ascolto, svegliarmi dal sonno, scrivere, perché sennò poi quando mi sveglio non mi ricordo più niente, e in questo modo ho perso molte poesie. In qualche caso credo meglio così. Appunto mi è stato chiesto che cosa spinge a scrivere. Allora, dicevo, in parte c'è questa musa un po' prepotente, un po' autoritaria, che io però adoro, perché senza di lei non esisterei. Dall'altro, credo che il motivo della scrittura si possa riassumere in un binomio fondamentale, che è quello di rabbia e amore. Si scrive per rabbia e per amore. Per rabbia perché sentiamo, o perlomeno io sento, il limite forte dato dalla nostra condizione comune, della condizione umana, di limite, di finitezza, e questo non soltanto con riferimento alla nostra vita biologica, evidentemente, ma con riferimento anche a tutto ciò che ci limita nel mondo, nel nostro aprirci, nel nostro migliorarci, nel nostro librarci in una dimensione migliore. E dall'altra si scrive per amore di tutto ciò che merita di essere amato, la giustizia, la patria, la comunità, la propria donna, il proprio uomo, i figli, i genitori. Ecco, e quindi per questo si scrive in definitiva. E le cose che trovate qui dentro sono il mio modo speciale di rispondere a questa doppia spinta, a questa doppia urgenza, appunto un'urgenza di rabbia e un'urgenza d'amore. Ecco, io con questo credo di avere temporaneamente finito, non illudetevi, ma lascerei volentieri iniziare Maria Pia Zanetti. Grazie. Musa ferroviaria, sirena binaria, mi accudisci come una croce rossina, fedele badante del poeta itinerante. Mi basta vedere la massicciata, e tutta l'ingrata fatica di vivere nell'aranciata si sfarina, ghiacciata, che sorbisco all'ombra della pensilina. Ah, musa ferroviaria, che sarei, che farei, che direi? Se non mi ispirassi altro sentire, altro avvertire, se dove sei non fossi, ma sono. E lieto mi traversa il suono della tua sferragliante cetra, e cassa mi rendi armonica e sonante, che accoglie il canto e al mondo lo rimanda. Sei l'ancella umile e gloriosa di mille rumori secchi e sordi, di finestrini richiusi, di sibilanti portelloni, di fischi, di tonfi, di nudi stridori. Sei l'unzio dell'aria spostata che piega l'erba del terrapieno, i papaveri e la bionda camomilla. Sei l'amica sognante che meco sogna, distrattamente assorta sulle mimose della campagna senese, sulla morta pianura, sulle nebbie grasse e ascose. Mi tieni la mano nella tetra galleria, quando il buio è pesto e nemmeno brillano le luci di cortesia. Sei l'anima del treno. Abiti in treno, una casa non ce l'hai, ti trascini in un vecchio pastrano, hai mille segreti aggeggi nelle borse di nylon che intorno a te volteggi. E biglietti di corse semplici e intonsi supplementi, musa un tempo di vapori, graziosa hostess del fiammante pendolino. Sei la compagna di viaggio perfetta, siedi di fronte, leggi la gazzetta, ti fai gli affari tuoi, ma se mi vedi rapito dal volo dell'airone, posi il giornale e la penna mi guidi sul taccuino per darmi soddisfazione. Cara, la mia musa ferroviaria. La scrittura non coglie l'annodato spirito più di quanto non lo scioglie. La scrittura è la vita che si snoda. La scrittura vale forse più a noi, voglio dire a me come alla mia carta, che a te che leggi e forse ti arrovelli. Il mio pugno la scalda, il mio pianto la feconda nel canto e la fa santa. La scrittura l'affonda nel prima, dove la cima trova alla gomena che fisso tiene a terra il mio legno e lo fa vero di albe e foschi vespri. Lungo questi orizzonti il tempo incontro a rebours di me bambino, che un verso tenta che racconti e umile spieghi. È quello che oggi mi ospita, benigno e bello in fondo, perché l'arpa tende come un dono a me splendido, inatteso. La scrittura non consola, traversa piuttosto e lava, e lì dove non scava deposita il suo senso arcano e mite. Non è un buon rifugio la scrittura, ti stana e ti perseguita, è un segugio, esige che ti arrendi e scendi a patti. La scrittura non edifica niente, non si pente, quello che è fatto e a lungo andare si fa evanescente. La scrittura tiene forse nel marmo o nel bronzo, peraltro è cosa tenue, è carta in cui si assorbe la frittura. Ma s'approssima un tempo senza fondo, che scioglie in parti per milioni il nostro pondo, anni ben ardui a contarsi, eterni. In essi non saprei cosa riporre, non c'è che resti, che si perpetui, e tutto in giuso a capofitto corre. Dicono che la poesia è preghiera, è religione, ma la poesia non prega né relega, si espone semmai. La poesia è fragile, non puoi caricarla né riempirla o trovarle una funzione che l'innalzi o l'abbassi. La poesia non serve a niente. La poesia non fa luce se intorno in vespra. La poesia è quel buio crudo, lo rende evidente, necessario. La poesia preesiste, se ne infischia dei poeti come dei critici, marcia nella notte svegliandoli e li frusta, marcia per conto suo. La poesia non è del tutto indipendente, le serve una penna e una mano che l'afferri. Ma questo è quanto. Per il resto sgorga fuori a fiotti, ordinata come truppa che si schiera, e la vittoria sul bianco spera della carta. La poesia odia i vuoti quanto i pieni. I primi sono ottusi, candidi, senza peccato, come il foglio che l'accoglie. Gli altri sono tronfi delle loro certezze, sono completi, interi, sferici, e hanno superfici saponate, inafferrabili, e internamente falsi, corrotti, come le teologie cui si ispirano i partiti. La poesia sta nel mezzo, e quanto più la strizzano gli stupidi ma onesti o le intelligenti canaglie, tanto più si smarca, e in alto vola o in basso, dove una via s'apra di fuga. La poesia dà nomi nuovi alle cose, quando quelli usati si confondono. La poesia è una fune, se vuoi t'appigli, ma più spesso è lei che afferra te. La poesia è ruvida mentre canta, ti strapazza. Lei è lei e non è te, ti guarda e poi ti insulta e con disprezzo chiede che uomo sei, chi sei, che resti. Portami fuori e cantami, cialtrone, dimostra che non sei come tutti, ma io sono come tutti. Rovino incontro alla mia morte. La poesia scappa disgustata. Voleva dignità. Ecco, il bello del testo letterario, forse soprattutto di quello poetico, è che chiunque lo legga può leggerlo a modo suo, anzi deve, non ha un'altra scelta, lo legge alla luce della sua sensibilità, della sua esperienza, delle cose che ha vissuto, delle cose che ama, in cui si riconosce. E quindi per me è particolarmente bello sentirle recitare, in particolare da Maria Pia Zanetti, che le ha interpretate così bene. E oltre a questo c'è appunto il piacere di sentire come le legge un'altra persona, che naturalmente per l'autore è un'esperienza del tutto nuova. Io le ho scritte, me le sono rilette molte volte, ad un certo punto in buona misura anche non le riconoscevo più come una cosa mia, però è bello così sentirle leggere e sentire anche gli altri cosa ci trovano. E questo era il mio punto di vista sulla poesia. Come dicevo, la poesia non serve a niente, la poesia svolge una funzione piccolissima, quasi invisibile, e però fondamentale per ciascuno di noi individualmente, e credo anche per la collettività. Cioè, la poesia dà nomi nuovi alle cose quando quelli vecchi si confondono, cioè crea una possibilità nuova per il nostro modo di vedere il mondo, per immaginarcelo e per sognarlo o renderlo migliore. È la funzione, come si dice con una bruttissima parola, reificante, cioè la funzione del testo letterario che crea, che trasforma in cosa un aspetto che potrebbe sembrare soltanto appunto letteratura, cioè niente. E da questo punto di vista, quindi, quando dico che la poesia non serve a niente, intendo semplicemente sottolineare un procedimento antiretorico. Non voglio attribuire alla poesia, meno che mai alla mia, una funzione salvifica, però la poesia ce l'ha, anche se non vogliamo riconoscergliela. E seguono adesso alcune poesie che parlano di paesaggio. Mi sono, a proposito di debiti letterari, mi sono molto mi sono molto lasciato affascinare da certe descrizioni di paesaggi che troviamo per esempio in Bertolucci o in Pasolini. Ovviamente per chi conosce Bertolucci e Pasolini vedrà che fortunatamente, dico fortunatamente perché c'è un'idea anche di originalità in quello che si fa, no? Non posso copiare da un altro, sennò. Però come vedete ho almeno l'onestà di dirvi che ho letto degli autori. Ma per chi conosce Bertolucci e Pasolini, io credo che non troverà niente di questi autori, ma questi autori mi hanno affascinato per la capacità che hanno di riprodurre degli ambienti, dei paesaggi. Ecco, il paesaggio per me non è solamente una cosa che si vede dal finestrino del treno o che possiamo vedere dalla finestra o dal balcone di casa nostra, ma il paesaggio è una presenza immanente, cioè è uno sfondo modificabile, sì, da parte dell'uomo, e purtroppo vediamo quanto il nostro paesaggio viene modificato, ma il paesaggio esisteva prima che nascessimo noi ed esisterà quando noi non ci saremo più. Quindi è qualcosa che persiste, che rimane per quanto sottoposto a manomissioni, e in questo il paesaggio manifesta una sua, questa sua caratteristica sacrale, immanente nella storia dell'uomo. Il paesaggio è il palco su cui tutti noi, attori che recitiamo le nostre vite, ci troviamo a stare. Insomma, il paesaggio ci appartiene, anche non è nostro, non possiamo che vederlo e riconoscere che è qualche cosa che ci supera, che è qualcosa che ci vince, e in questo paesaggio possiamo trovare tutti gli elementi che appartengono alla nostra vita, alla nostra evoluzione, al nostro desiderio di conoscenza e anche di autoconoscenza. Piove sulla pianura, oltre i vetri, oltre le linee dei pioppi fantasma che marginano i fossi emiliani. Bada, questo viaggio non è in fondo che uno scudo di caldo e valigie. Piove sul bozzolo dei miei pensieri, piove sul macchinista e sulle suore, piove al mondo intero, ma non lo lava, l'affascina al retro di bianchi e grigi. Piove diffuso sulle terse alcove, sulle mani, sugli erti terrapieni delle golene quiete sui giardini. Piove senza distinzione, distratto, piove su tutti con determinazione. Ogni cellula beve, partecipe al color del niente, che in un occaso la distende amaro, indifferente, ma in un vaso la scioglie che la serba. È solo il 3 di febbraio in questa landa del 2008, ma distesa l'erba nuova rivendica all'acquaio lucido dei campi la sua età, l'impudico ritorno mentre gli aironi s'acquattano in bande tra vuoti barili di nafta e carcasse di trattori. È l'inverno, sciama lento sulle case rosse che fanno gli orli di Bologna, di Modena, di Reggio, brutti come un urlo soffocato e triste. Presagio di un vasto concavo buio che i contorni squadri dell'Appennino. Come fuochi sulle aghe, le luci a 2, a 4, a 100 s'accendono a rischiarare i muri degli orti come ai cimiteri, ai luoghi che non speri, ai viottoli morti, tesi e senza fine, che sbattono contro alle ripe, temerari. Dalle corti su cui piove, non muove senti voci d'umani, ma un tacere rattenuto, come d'acqua cui l'onda scema e rotta dal gorgo s'acqueta sulla sponda. Questa è l'ora della saggezza mia. In una tenerezza mi pieghi di pioggia e occidenti grigi, in memori, nel canto sommesso della roggia, in ciò che fu, deve essere, e così sia. Primi di ottobre del 99. Torno da Firenze, è un tardo pomeriggio, anzi già quasi sera. È sereno e non fa freddo ancora, e l'indaco che volge al blu e tosto al nero inghiotta il rosso che rimargina rade nubi, presagi di un buon mattino. Ho bevuto con Anna Palazzi del Chianti e faticato a terminare una costata fiorentina tanto grande da sembrare appartenuta a un dinosauro. Poi Santa Croce, Ponte Vecchio, via dei Georgofili, ferita in un tempo che pare lontano, ma non per lei, che ne soffre ancora parlando a bassa voce il suo italiano perfetto, di donna colta e buona che capisce. Poi il treno risale l'Appennino, attraversa la pianura e fende l'Alpe, in basso coronata dalle Prealpi, fitte un tempo di laghi inframorenici, dai dossi dell'Alto Mantovano, bassi e bagnati un tempo, ora il regno di ciclabili e di trattorie. E poi dentro al buio della galleria di Rivoli, un vuoto lungo, assordante, in cui dissolve l'inquadratura larga dell'Adige di pianura, e quella stretta riappare del gran fiume, compresso tra versanti verdi e acclivi, sospinto al centro da iconoidi di deiezione, dall'autostrada del Brennero, dalle bonifiche di Maria Teresa e dalle rettifiche tardo ottocentesche, cui seguirono altre rettifiche, e presto anche il vapore dei treni, gravi sulle traversine gettate a mille sulla massicciata, che come un tumulo serge sulla piana ampiamente umanizzata. Rovereto Borgosacco, Rovereto Sant'Ilario, Rovereto San Rocco, Volano in destra d'Adige, Mori, Isera, Villa Lagarina, Aldeno e di là Calliano, Beseno, Castelpietra, l'acqua viva di Besenello. È vero, siede una poesia incantevole in seno ai nomi. Se la nera terra dei luoghi una volta turbato sgranasti tra le dita, mesto aggirandoti tra le vigne, dove Alberto Manica potava con Cristina sotto a Noarna. Le idee sono importanti, gli dissi un giorno, e lui, che è ben più grande e saggio di me, rispose che le idee talvolta uccidono. Aveva ragione lui. Solo questa vigna non uccide. Anzi, ti accoglie assolata su un pendio così perfettamente volto a mezzodì da non gelare mai, perché porta i neri incantesimi del Marzenino. Non sei ancora sceso dal predellino, che quanto il viaggio ha potuto in dolcezza, in fantasticheria, in riflessiva solitudine, presto si cangia in una dolcezza nuova, ma più inspiegabile e rude. È il ritorno a casa. Bolzano è la nostra città. Non è male prendere le distanze quando si può. Sa essere chiusa e opprimente nella sua conca, arrogante musa, troppo ricca e quasi senza merito. Ma è la mia città. Annotta, a capo del ponte, dove la biblioteca civica dall'alto di una vuota, magnifica terrazza su un portico poggia convessa, mobile ed elegante di mattoni e di bianco travertino, Monica Caldaro mi ferma con un gran sorriso stupefatto. È molto bella. L'autunno la segna di una luce morbida, opaca. L'autunno dei suoi 33 anni. Le lacrime agli occhi, perché in cielo smisurato e lucente è comparso il disco di una grande luna, così compiutamente piena e pura da ringraziarla d'esserci. E io ringrazio Monica. Non avevo visto né lei né la luna. Guardavo diritto, avanti, verso i fornici alti e stretti del monumento alla Vittoria, oltre il ponte, allineati, e anche un po' la punta delle mie scarpe, con quel senso di fallimento nostalgico che abbiamo talvolta noi, italiani di Bolzano, quando baratteremmo tutto il porfido per un solo granello di pietra serena. Ma è il porfido che ci chiama, duro e riottoso, perché vi scolpiamo qualcosa che resti utile a noi. Bolzano ebbe per sempre un orizzonte poco profondo e solo aperto nel meridione e nell'occidente breve, dove presto annotta oltre le quinte verticali della mendola. Fu un orizzonte spianato oltre ben piantate distese d'alberi da frutto, tra la riva stretta e precipite dell'Adige, e l'alta rupe di Castelfirmiano, tetra e turrita, angolosa, diruta e boscosa, e fresca d'ombre alle ripide pendici. La cima è un libro di antiche storie stratificate, coperte dalla storta esistenza della quercia, dalla fronda dell'agrifoglio acuta, lucida e verde, anche quando rosse le bacche l'ornano nelle fredde ore mattinali, stampate nel gelo e nell'attesa del Natale. Quell'orizzonte è perduto. Sia fatta dunque la volontà di questa città che male cresce e male muore, mentre nasce a nuove popolose periferie di case incondite, di inediti tetti, piani senza spioventi, dove gentlemen in calzoni corti distrattamente annacquano stente palme, che il bene non avranno di una nuova primavera. Io per me ritorno senza nostalgia, ma con rimpianto forse della stessa esistenza limata dal tempo e dall'attesa, annosa e ritorta nell'illusione come nel sogno, agli anni che videro sorgere dalla pura, indegna campagna la selva uguale, falsamente perfetta della città ideale. I palazzi troppo alti e grandi, nella bassa, oltre via Sorrento, dilaganti tra via Druso e via Resia, presto invasi da una stirpe di impiegati e bottegai, dal ceto medio e basso degli operai, dei padroncini, che tennero per quanto poterono a distanza quanti fossero troppo più in basso. Questi popolarono via Similauna, ricetto lentamente ingolfato di stranieri, nordafricani e indiani e ora cinesi. Ma prima era la patria distesa degli sterpi, di arbusti polverosi, di robinie brutte ma fiorenti, dei muri d'orto di sassi, dei masi sparsi, di blocchi di porfido a reggere alzati neri di vecchie assi, e gialli albicanti di paglie dai sottotetti l'urlo alzavano, muto della sopravvivenza. Ora sopravvive la generazione di quanti vissero nelle casette semirurali di via Parma, via Bari, via Alessandria, ma ne scema il numero. Furono i padri della mia perplessa generazione, e i loro padri, Rovigotti, Mantovani, Friulani e Meridionali, che tenevano i ruoli dello Stato, impiegati, maestri, ferrovieri e militari, quanto restava della forzata italianizzazione dell'Alto Adige sotto il fascismo, fatta con le fabbriche, dove però bene attecchiva e meglio lignava la pianta del comunismo, o almeno dell'antifascismo, protetta come i virgulti nell'inverno dalla soffice mota dei tanti che non seppero o non vollero dichiararsi, temendo perdere il lavoro o la casa, o subire i torti di cui il regime largheggiava. Grazie a loro, o nonostante loro, anche Bolzano fu liberata. Molti compagni, giovani ed impari, caddero in extremis, umili vite inutilmente sottratte alla dura impresa della ricostruzione. Altri, i più, vissero perché avessero nipoti belli e ben nutriti, cui offrire il miele di morbidi frutti, gli incredibili fichi rosseggianti tra le foglie verdicanti e pallide, grandi e sinuose da alberi piantati 40 anni prima, a spargere gocce di zucchero sugli agri tetti delle semi rurali, di steccati, cinte, di vie bianche e polverose, dove ragazzette cenciose e donne vestite di nero e bimbi scalzi e tristi il volto offrivano pudico allo scatto del fotografo, quando lo comandasse la ricorrenza, il lieto o il triste evento. Ma niente esiste più, nemmeno a stento. Cerchi un luogo di perfetto silenzio, ma l'anima non è quello. È un trivio assordante di ruote, di carri che premono cigolando il selciato, i buci. Lo trovi nell'erba rasata di fresco, di questo corto altipiano, marginato di nebbia verso valle e verso monte strizzato dal muro di un cimitero di paese, dove ragni tessono indisturbati una trina di esili fili, tra le croci battute a mano, tra i ghirigori vegetali del ferro che sovrastano stinte fotografie. Il sole sorgente esala a stelo un'umile guazza, la posa esitando sul volo senza scopo delle rondini che sentono l'ora di nuovi tetti. Punteggiano la quinta di fumo, la perforano battendo piano le ali a crocchi e vi cuciono una storia effimera, ma vera. La nebbia s'alza, trascina e dispare ogni voce, mentre vecchi muri bianchi rifanno più verde l'erba, gli uni all'altra necessari. È questo il regno del silenzio che cercavi. Lo schioccolo rompe dei merli, la freccia iridiscente delle gazze che hanno lunghe code, e la campana che dalla torre stilla un battito calmo e disumano. Bene, e con questo si chiude chiamiamola così, la sezione dedicata al paesaggio. E, non c'è scritto da nessuna parte, ma vi posso comunicare un grande segreto, che il cimitero di paese di cui si parla in questa poesia è il cimitero del paese di Velturno, in Val di Sarno. Se una volta andate a Velturno potete ritrovare le stesse sensazioni che ho trovato io nello scrivere questa poesia. E, c'è poi una sezione centrale che potremmo chiamare della poesia d'amore. E, qui naturalmente bisognerebbe fare una duplice premessa. Allora, da un lato che queste sezioni di cui si compone la raccolta in realtà si compenetrano, perché non c'è una cesura nettissima dal punto di vista degli argomenti e dal punto di vista dei temi. E la seconda piccola premessa è che sotto questa idea di amore c'è tutto ciò che può ricadere nel concetto di amore, così come lo intendiamo e come già prima l'ho un po' tratteggiato. È chiaro però che la poesia tende ad una sintesi, ad un distillato. E questa sintesi per me significa sostanzialmente fiducia, cioè amore come fiducia nella vita e come fiducia nelle possibilità che abbiamo di rendere la nostra vita e il nostro mondo migliori. Ecco, questa è l'idea che sta dietro questa sezione che possiamo intitolare l'amore. Se cogli un quadrifoglio magicamente sortito da un campo di anonimi steli d'erbe, consentito ti sia di esprimere un desiderio. Tu non la sprecare l'occasione che ti è offerta da una mano fortunata. Presto si volge la ruota, scuota per te il barattolo dei dadi, e qualcosa da attendere ti appresti la buona stella, stella. Quel numero dispari sono io, la simmetrica sorte che i tuoi giorni hanno appreso oscuramente, ad essa afferrandoti con entrambe le mani, come un gioco di fanciulli che in un altro transita, d'amore che acceca. È l'alba dei tuoi 40 anni. A mezzo si vede il cammino che torto procede nella selva, vedi la belva che ti incontra, è un incubo. Il mattino che ogni giorno serge la spaccia, come la brina in novembre, un pur pallido sole. Ti incontro anch'io, la traccia seguendo del tuo bene che in me riposa, per fartene dono. Tu l'accogli, il sangue spreme il suo rosso alle guance e gli occhi lucida e tinge. Io non so riandarne il misterioso incanto, l'amore ti levica, ti prunisce, al creato ti unisce e ti somiglia, Sente il mondo il tuo odore di terra e mirto e viali di ghiaia, in cui si specchiano cipressi e tortore, ed è qui che rinasco, qui che abito. Dimentico di ogni pace che non sia l'ombroso tempio del tuo corpo, Aurora. Il tempo non lo sfiora, vi si accampa come un compagno amato. Nel tempo scorgi ogni riposto senso che è speranza, attesa e disattendere disperando. È la rosa potata sul farsi autunno del giardino, la foglia vizza del ciliegio, la lucentezza tardiva del noce, che reca frutti serrati e odorosi di un seme liquido e nero. Nel tempo scorgi e perdi ogni senso, lo strappo, la durata, l'insidiosa fata e la sua triste profezia, le zuffe dei bambini nel cortile, i vecchi che muoiono e un giro danno a questa giostra insensata che accalora. Di spiuma e salice un vento azzurro, cupo, quasi grigio, che sente di resine montane e l'eco reca delle sagre battute da piogge fredde e traverse. Ma il tuo cuore è un orto di spezie, di fiori celesti piccolissimi, onore del rosmarino e della lavanda, di salvie e allori, la cui foglia l'olio diffonde sulle dita se la spezzi. E aglio ed erba cipollina, gli odori lieti e domestici di un orto, il cui uscio sbatte percosso da un vento di stelle. Novembre sa essere un lago di gelida pace e di luce distesa, a cieli bassi e piovosi e fredde altezze celesti e limpide, in cui specchi un dolore sereno, il dolore della buona coscienza di chi ha fatto bene, l'unica cosa che si debba fare in questa vita. Il tuo respiro ha respirato a lungo nel respiro ostinato e insensato di tua madre e si è fermato col suo, in quell'istante in cui le vite, non le coscienze, tacitamente s'accordano in un saluto forse definitivo. Come finisce un'esistenza? Dove finisce? Perché finisce? Questo non chiedo, non chiedi. Se quel punto ha troppo lacerato la carne e inutile ha reso lo spirito, che regge quanto può a se stesso, mentre langue. Poi la ritrovo nel barattolo di latta in cui riponeva i biscotti per la colazione. Mangio, e mentre mangio il gesto, l'ingoio domestico di lei che governa un mondo piccolo ma essenziale e buono. E questo è in fondo per me il suo funerale. La saluto nel biscotto versato per primo nel barattolo, l'ultimo che trovo sul fondo, tra briciole d'altre stagioni, vissute inconsapevolmente, e che ora si ergono vere, oltre le cerimonie e le parole inutili e vuote del prete. Il suo per te, lo consumi in giardino. Novembre ha esalato, ostinato e breve, il frutto splendido dell'attesa e della speranza, due rose gialle, una in boccio minuscolo e una grande, aperta e larga, stesa nel celeste come un veliero, pronta all'amore, a un'agnizione postuma e profonda e dolce come solo il dolore dona a chi resta e nel vuoto si aggira come profugo e scampato. Le guardi, le carezzi, alle spine t'apprendi e non senti il loro morso, se vivo ne scaturisce stillante il sangue che in questa plaga ti lega e ti sommuove. Monta la piena delle lacrime, all'angolo ti apparti dell'orto e quando ti rivolgi il viso è teso ancora nello sforzo di abbandonarti alla vita che hai grata al novembre, che la sua verità botanica e campestre sussurrando protesta al mondo, lucido e increspato, come lago dal vento in un'onda amica. Eccoti qui, domenica settembrina. T'aspettavo in una notte fredda e lavata dall'acqua, nei chiari e lenti giorni dell'estate, senza traguardi, tessuta di sconforto e vuoti. Eccoti qui, ho pensato, sei tornata ad annunciare il mio anniversario, sei verde e gonfia d'acqua e vita, come il ventre di una gestante. Ti carezzi la pelle tesa e la forma tenti, mobile come battito d'ali di chi nascerà. Ti traversano a passo leggero ragazze meno svestite, anziane che già indossano le calze e un cielo immacolato, preciso. Rinasco, mentre muoio nelle cangianti forme della vita, non richiesto mai se non da te, che hai un volto aperto e chiaro come pagina di libro, domenica settembrina. Dilaghi tra le urbane geometrie di case vecchie che sembrano nuove, stirate dalla luce radente del mattino come lenzuola. Radi umani fuori dalle chiese, lenti e riconciliati, escono a coppie, a miseri crocchi, ti abitano e non lo sanno. È tutto interno il loro assopimento, il pieno loro di senso. Il mio lo cerco nel mistero del ciclico palesarsi del mio genetriaco, luce acuminata come freccia, fredda alle membra, ma pulita come ciottolo di fiume, morbida come seno, guanciale di non saputa infanzia. Quando al mondo sorge e compiuto già appare ad ognuno il suo cammino. Porgere la mano fidente, amare ogni affanno, non credere crudele il testo che è per te già scritto. Sconfitto non credere il proprio esercito di sognanti certezze se ti trovi ad erigere solo il tuo trofeo sul campo bruttato dalle cataste dei morti che gridano le lacrime delle vedove, dei figli lasciati dolci e in fasce in case sicure. Questo ti chiede il tuo libro letto a metà. Questo la fede nella brezza delle domeniche settembrine, fredde di notti incastamente baciate, tu casti, dalla pioggia che la vampa calda del piano remoto all'alpe sospinge come un carro. Accampa le tue schiere, come una, cento tende s'alzino coi loro stenti focolari. La palizzata sull'aggere serga a proteggerle, se il lune il tempo s'appresta dell'attesa. Questo è scritto, non lo combattere. È questa la saggezza che la fronte spiana e che sdolora. L'albergo in cui passeremo l'estate nostra, che sono le due settimane prime di luglio da sempre, è quest'anno una vecchia cosa non totalmente brutta, ma solo esageratamente affollata. Mentre ci guardiamo perplessi, Lidia avvolge con eleganza un bastevole giro di bavette così generosamente agliate da proteggerci per sempre dal demonio. Si guarda intorno da intenditrice e poi dice seriamente: «Va bene, dai, tanto per quello che ci stiamo». Allora la guardo, alla fronte alta di mia madre, lo stesso nome e il caldo ma fermo amore per la vita della sua. La treccia bionda dei suoi 12 anni, i fianchi che prendono a disegnarle un profilo da giovane donna. Dio mi ascolti, se tremando dico Dio ti benedica, leghi con la pece migliore il bianco piumaggio, di forti ali a solcare ironica e benigna, cieli traversi e nubi cariche di ghiacci. Sacerdote augurale che gli occhi stringe e nel farsi e disfarsi degli stormi la storia che ti attenda in un quadro di pace e di dolore pinge che ti invera. Questo sono io, la fronte alta di mia madre, le mani grandi dalle storte dita, lo scrigno di dettagli anatomici che su di te ritrovi, fintamente adontandoti. Torno a toccarti le palpebre finemente, a finire un'opera ben fatta, cui non attesi un tocco che più di dentro ti tocchi, come un travaso di storie diverse per dirti che anche tu sei flutto in questi flutti. E come un torrente s'abbeve alla sua fonte, e presto si ingrossa ed in faccia al salso mare ribollendo corre, così tu, amore, cui la sorte aperta doni una risata argentina, e salde membra, e vista che veda oltre sé, per umanarsi. L'amore è l'amore di un corpo che vive, che vede, si ammala, l'amore è l'amore di pelle che splende, di lucidi occhi dopo l'amore, l'amore. Ricorda l'odore e risente il sudore, l'amore è l'amore del corpo che suona, di voce e respiro, che muove, che sposta, che resta, del corpo che nasce, del corpo che cresce, l'amore è l'amore del corpo che esce e in te rientra, l'amore è l'amore del corpo bagnato dal vento, cullato dall'onda, l'amore è l'amore del corpo che pesa, che stampa l'arena, che grava, ma l'onda l'impronta sua cancella, e questo è l'odio. L'odio è l'odio di ciò che resta, è indifferenza, l'odio è disattento, non ha occhi né orecchie, non avverte che se stesso, l'odio odia il corpo, alla sua quintessenza si manifesta nella predilezione per l'anima, quella non ha fame né sonno, non deve bere né vestirsi, soffre sì ma non si vede, non colma le fosse comuni di Srebrenica e con poca spesa l'odio ne distrugge a mille. E così giustifica il ferro e il fuoco, ma l'odio è cieco veramente e più spesso sbatte contro il muro, si graffia la fiancata mentre manovra, si imbottiglia nel traffico dei maneggi, si intorcola su se stesso e crepa. E invece l'amore? L'amore è l'amore di aperti spazi, perché l'amore è l'amore del corpo che corre, che salta, che vive, che sente, è l'amore infinito di te, presente. L'amore non vuole ricordarti né desiderarti, l'amore è l'amore che vuole toccarti. Hai stanze vaste e ordinate dove il mio tumulto s'acquieta. Una tenda di seta che l'estate rovente filtra, la mitiga il pavimento fresco alle nude piante dei piedi. Hai stanze per il mio sentimento e per la mia insensatezza, silenzi e ombre che il vento agita leggero tra le imposte. Carezza alla tua schiena bagnata e soste infinite tra i tuoi libri. La tua casa ha porte come torri e fossati. Un esercito la difende di giorni sbagliati, di ore confuse, di sciolte talvolta nel niente, di una inaspettata felicità. Non tardare, come una fiaccola brucio nell'attesa, una sentinella sono sugli spalti in faccia al mare, un naufrago sbigottito che tocca la bella terra, sospinto dai flutti. La tua casa ha un balcone di edere e fiori in faccia al meridione avvampante. Uccelli lo visitano e farfalle multicolori, e come umili messaggeri i voli fantastici dei miei pensieri. Sei la mia casa e la mia pace, amore. Guardami dormire. Unica certezza che esisto al mondo anch'io quando non sento nulla, nemmeno il battito sconnesso dei getti di sangue nelle arse vene. Guardami dormire. E toccami come un cristallo, ascolta il respiro e godi della mia presente assenza. Un vortice sia il mio risveglio, come di ballo, come di farmaco, a un odioso niente. e ci abbiamo alla conclusione. Ho voluto che l'ultima sezione della raccolta idealmente contenesse poesie che potremmo definire politiche o civili. Sono intese nel senso dello sguardo che ho voluto gettare sul mio tempo e sulle sue contraddizioni per come le vedevo io. E quindi non sono un manifesto, non sono mai il manifesto di un partito o di una linea politica, sono lo sguardo gettato sui conflitti e sulle contraddizioni del nostro tempo. E ora parlami del tuo tempo e del mio. Come in questa feroce plaga di pazzi siamo capitati tu ed io, che volevamo bellezza e pace, e invece. È poi peggiore questo tempo da altri che l'hanno preceduto? Che domanda, è certo. Non vedi quanto più distruttiva oggi, benché chirurgica, sia la guerra? Ma no, ti sbagli. Fin dall'origine, come sostiene quel tale nel libro tal'altro, nacque cattiva l'umanità come gramigna, un errore del Dio. Ma il dubbio rimane aperto, e la stiva dei pensieri si ingombra e si ingolfa di scemenze, come un cane s'acquattano vigili, ma in fondo indifferenti le coscienze. All'ombra cheta, un pizzico di perdono raccattano dal piattino in cui cade l'elemosina. Questo è il nostro tempo, temo. Non peggiore, ma nemmeno migliore. Lo mitiga l'ora in cui l'amore il mostro ricaccia e il tedio gli rinfaccia dell'attesa. Attenderti valeva, mi pare, la spesa, ed è lì che ogni cosa al battito somiglia dell'ala nell'alba tetra, quando tutto pare immobile e non è. A forare umilmente ma con decisione la veste nuova della primavera, verde e piovosa come vuole aprile, i ciliegi gettano i loro fiori bianchi come crocchi di frati predicatori sul sagrato. Oggi non credi che a capo di giugno il rosso frutto saranno, cui s'attentano i bambini in ascese spericolate, possano tendere la mano e per scherzo guarnirsene le orecchie come ciondole d'infanzia, sbeffeggiando infuriati contadini. Somigliano infatti a quei tronchi grigi e ruvidi, a quei bei frutti gemmi. Sono anche loro nemici ai filari in cui s'allineano sorrette a pali di cemento le vigne, come schiere di soldati, come sgherri vegetali. I ciliegi crescono dove vogliono ed imitano il salice piangente e la chioma vasta del noce solo e muto, come un vate in mezzo al niente. Oggi imparo ogni cosa. Potrei, ascoltando, ripetere lo stormire delle foglie ai rami e il canto degli alati che vi dimorano, ascoltarli e ripeterne il suono avendolo compreso. Oggi capisco la terra polverosa e il suo stupore se piove, imparo il suono e l'odore se piove, e sono quella terra e quella polvere stupite. Oggi capisco la pioggia e il suo canto, necessario e coprente, e ne godo. Oggi sento la mia disperazione senza peccato, di chi non ha più nemmeno il suo Dio, maledetto da maledire, né lacrime agli occhi, né figli adorati da vegliare, né padri e vecchie madri da accompagnare alla morte, avendola sentita vastamente la loro. Niente mi sembra la mia piccola miseria, e ne provo vergogna. Oggi rimpiango ogni minuto in cui, potendo ascoltare, ho parlato. Potendo compatire, ho pianto da solo. Potendo amare, mi sono distratto. Oggi contengo ogni cosa. Mi pertiene la fiducia di domani senza vento, e il vento che mi gonfia i polmoni se ne ho voglia, e vi cerco un Dio onnipotente, rabbrividendone. Oggi sono intelligente come i bimbi, che non hanno nulla nella testa, se non la voce e la carezza che la riempie del padre e della madre. Oggi sento e vivo, e ti sono grato del tanto che distilli nel mio petto di lontano vicino amore, perché forzi con dolcezza la terra che mi regge e la costringi ad aprirsi e contenermi, perché capisca ogni cosa e stia intelligentemente desto. Questa era una scelta di alcune poesie di Musa Ferroviaria. E io ringrazio moltissimo Maria Pia Zanetti per la sua interpretazione, che ha dato molte ali alle... Sì, era quella giusta. Grazie ancora. Ringrazio Umberto Tecchiatti, ringrazio Maria Pia Zanetti, ci hanno regalato una serata veramente piacevole, emozionante. E spero che questa biblioteca dia più spazio anche alla poesia, veramente, perché ne abbiamo bisogno. Grazie. Che non è, sì, non poi sono semplici, no, infatti è quello che pensavo, perché avevo letto delle cose e poi avevo letto sul tempo in prima